Terzo meeting internazionale contro il ponte stretto di Messina. La manifestazione indetta dal Messina Social Forum si terrà dal 17 al 25 luglio a Capo Peloro, tra Scilla e Villa San Giovanni, la parte più a sud della Calabria. Gli ambientalisti giudicano estremamente dannosa la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, mentre per il governo il ponte è necessario e renderà veloci i collegamenti tra l'isola e il continente. Emergenza rifiuti in Campania. Gli inceneritori per bruciare tonnellate di immondizia, se realizzati, non avrebbero provocato danni alla salute pubblica, specialmente quelli dell'ultima generazione. Lo ha dichiarato uno scienziato del calibro di Umberto Veronesi. In Sardegna apre le porte un parco naturale unico al mondo, quello minerario di Iglesias. 8.000 anni di testimonianza. Da oggi a Positano, Cartoons at Bay, Festival Internazionale dell'Animazione, la manifestazione di Rai Trade assegnerà i Pulcinella Awards al miglior film d'animazione in concorso. 35 le opere in concorso da 27 paesi. Giovanni Farzati di Reporter Associati per Amisnet, email giovannifarzati@hotmail.com.